I miss you, babe, I miss you, babe, I miss you. Where are you now? I need you, babe, I need you, babe, I need only little things. Something is still burning inside. Ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Super Lovers dal titolo On the Road to You. Come si chiamava questa canzone? I Miss You. Quali saranno ora le prossime mosse per la band per il futuro? Allora, sicuramente la band si sta muovendo, è sempre on the road, diciamo, e quindi live, perché è il nostro contatto più vivo col pubblico, per vendere i dischi, per trasmettere la nostra musica e la nostra adrenalina. Sicuramente stiamo scrivendo dei pezzi nuovi per regalarli a quelli che conoscono già il disco e quindi hanno sempre, sono affamati di musica nuova, e di far conoscere il nostro disco, la nostra musica, con tutti i canali possibili e immaginabili. Che siano radio, TV, che siano iTunes, passaparola, cioè, capito? Cercare di trasmettere. Certo, certo. Allora, siamo al quinto brano. Cosa scegliete di far ascoltare? Facciamo ascoltare Orange Game, che tra l'altro, fra virgolette, posso dire che è il nostro, sarà ed è il nostro singolo, e presto uscirà un video che stiamo girando a Milano. Bene. Da un bravissimo, come si dice, cortometrista? Videomaker. Omar. Omar. Videomaker. Videomaker. Videomaker, quello lì. Omar. say boom. Sempre scorre, noi siamo in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email gianluca76m@yahoo.it. ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio in streaming attraverso i vari player. Grazie Super Lovers per la partecipazione, buona fortuna per il vostro album, e a questo punto la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco e un calendario di live già definiti. Ok, diciamo che il nostro piccolo tour si è chiuso nel 2010 e ha visto una ventina di date intense dove ci siamo divertiti veramente tantissimo. La prima data imminente è una data particolare perché è ad alta quota, come hanno fatto i Placebo l'anno scorso ad Andalo per il Rock Ski Festival, e suoniamo a Folgare dal Rifugio Mass il primo weekend di marzo. Poi abbiamo una data provincia di Trento, provincia. Poi a Ravenna invece, quindi in casa, giochiamo di fronte al mare per l'apertura del Bocca Baranca, che è un luogo dove fanno concerti bellissimi, e l'evento è Rock a Nastro, che raduna più di 2000 persone, e lì speriamo di vendere tanti CD. Sempre sul CD vi ricordo che, certo, insomma, lo trovate in vendita online in maggiori negozi digitali, quindi soprattutto su iTunes, Napster, Music, iTunes principalmente, e che potete trovarci nei profili di MySpace, Facebook, Twitter, insomma, cliccateci. The Super Lovers. Summon it. Brano per chiudere questa puntata. Binari. Gianluca e Super Lovers vi salutano e ci risentiamo la prossima settimana. Ciao! Binari, cara.